Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Ragazzi, buongiorno anche oggi in diretta 800240024. Se ci venite a fare compagnia, siamo contenti. Giorgio De Luca è il nostro autore, Gianmarco Ferronato è in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Se ci date un'occhiata, siamo anche più contenti in diretta sulla pagina Facebook di Tutti Convocati. Anche oggi tanti temi di cui parlare, tra i più vari, perché c'è la Juventus che sembra ferma eppur si muove, c'è la grande suggestione del Torino che si raduna al Philadelphia ed è credo un'emozione unica per tutti quelli che lo hanno gremito ieri, piazze bollenti come Roma e Firenze all'ordine del giorno. Quindi a me incuriosisce, mi fa impazzire l'idea del tridente Dantan che ha costruito il Verona. Poi c'è Wimbledon dove cade la prima testa coronata, che è quella di Nadal. Alle 15 dopo GR, Marino Bartoletti da non perdere. Andiamo con ordine. Juventus sembrava ferma eppur si muove. Ciao Antonio Barillada, Corriere dello Sport. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Racconta quello, le due pagine in sintesi, le due pagine che hai scritto oggi, poi aggiungiamo le notizie di giornata. Beh, coincidono, no? Coincidono, giornata, le due pagine coincidono in parte perché si annunciava questo blitz dell'amministratore delegato della Juventus Marotta a Monaco di Baviera per chiudere l'operazione da Glascosta. Ebbene, il dirigente bianconero si trova in questo momento nel quartier generale della società bavarese con il DS Paratici e con l'agente FIFA Branchini, che è stato preziosissimo in questa trattativa in qualità di intermediario. E credo che siamo ai dettagli finali, proprio perché la trattativa era stata impostata in tutti i dettagli attraverso un'intermediazione. Si tratta di limare proprio le ultime cosine, chiudere, sottoscrivere l'accordo e portare il giocatore a Torino per questo secondo grande colpo, perché la Juventus abbina sempre esperienza e qualità a dimensione internazionale da una parte e giovani importanti dall'altra. Sotto questo secondo profilo anche l'acquisto di Schick può essere considerato un piccolo capolavoro. Può essere considerato un piccolo capolavoro, certamente. Douglas Costa dunque arriva, la Juventus si sta guarnendo di esterni e poi andremo sulla collocazione tattica di tutti questi. Tramonto ovviamente l'ipotesi Danilo per quello slot che sembrava essere più preoccupante, no? Dani Alves, che è stato sposato in gran segreto, è stato scoppiettante per il brasileiro. Dunque, cosa succede sulla destra del fronte juventino? Ma guarda, la regola degli extracomunitari con gli slot ormai tutti occupati, perché l'altro è occupato dal giovane e promettente Betancourt, certo. Sicuramente oltre a Danilo taglia fuori Aurier, quindi sono due gli obiettivi che vengono meno. A questi dobbiamo aggiungere i vari profili individuati, ma considerati incedibili, come nel caso di Darmian, oppure accasati altrove, come nel caso di Tete, che era stato proposto da Raiola, ma che dall'Ajax è già andato al Lione. Sì. La scelta non è molto ampia a questo punto, a meno che non ci siano quelle tipiche sorprese marottiane, ma in questo momento c'è sicuramente una pista tracciata per Decilio del Milan. Ma sai cos'è? La Juventus non mi sembra particolarmente preoccupata per questo. Cioè, così a sensazione, dall'esterno. Un po' non è particolarmente preoccupata, perché comunque ha individuato degli obiettivi chiari e Decilio questi. La Juve, al di là dell'ultimo periodo milanista, si fida in maniera cieca di questo 24enne, ma con tante presenze in Serie A, con una buona presenza in nazionale. L'altro motivo è che non è preoccupata, ma le altre piste erano tutte impostate. Invece Dani Alves ha un po' spiazzato la Juve, quindi è chiaro che c'è una situazione più fluida, una situazione più tranquilla, perché forse siamo ancora nella fase della riflessione e non dell'assalto finale, come è successo invece con Douglas Costa, con Bernardeschi o a centrocampo con Matuidi e Zonzi. Esatto. Per quanto riguarda il capitolo portieri, che riguarda anche il futuro, Szczęsny mi sembra fatta con l'Arsenal, no? Assolutamente sì, è lui l'uomo scelto. La Juventus aveva valutato due soluzioni giovani: uno era Alex Meret dell'Udinese nell'ultima stagione alla SPAL, e uno era Donnarumma, ma ovviamente come ipotesi di lavoro nel caso di mancato rinnovo con il Milan. Come disse Marotta, se un portiere così finisce sul mercato, noi abbiamo il dovere di puntarci. Sì. Quando queste piste sono un po' venute meno, si è pensato di puntare sull'esperienza e si è scelto subito Szczęsny, già abituato al nostro campionato, protagonista della Roma, soprattutto al centro di un ottimo rapporto qualità-prezzo per via dell'imminente scadenza contrattuale. Certo. La Juventus ha trovato un accordo, sta limando le ultime distanze con l'Arsenal, che vorrebbe capitalizzare un po' di più. Il portiere firma questo quadriennale, accetta di fare un anno di panchina, sì, che però è un buon sacrificio, considerando che poi prenderà l'eredità di Gigi Buffon, che ha confermato, al di là di un minuscolo spiraglio legato a un patto con Agnelli, a una scommessa con Agnelli, ma ha confermato di lasciare dopo il mondiale, che gli permetterà, ricordiamo, di stabilire l'ennesimo record, perché nessun calciatore ha mai disputato sei mondiali in carriera. Guarda Antonio, io credo che un'altra stagione significherebbe un ballo di troppo, quindi mi auguro che sia davvero così e che penso che sia così. No, ma è giusto così, perché lui credo che abbia dimostrato di essere uno di quei campioni che accettano di rimanere in prima linea finché sono protagonisti. Bravissimo. E non diventerà mai un sopportato, come è successo anche a grandissimi campioni. Infatti. E credo che abbia l'integrità fisica, oltre che l'entusiasmo, per un'altra stagione a grandi livelli, dopodiché sarà giusto mettersi da parte. Ma infatti, a me stanno venendo in mente il basket, mi stanno venendo in mente i grandi Chicago Bulls, mi sta venendo in mente come Phil Jackson intitolò quell'ultima stagione, consegnando il libro per la stagione ai giocatori, The Last Dance. E queste sono storie, sono psicopatie mie. Senti, invece, torniamo su psicopatia altrui. I tifosi juventini hanno la psicopatia del centrocampista che manca, che di cui l'anno scorso si è sentita la mancanza. Marchisio rientrava dall'infortunio, però quel vuoto si è avvertito in maniera improvvisa e violenta nella finale. Un centrocampista serve, secondo me, cioè, vista da fuori, l'esigenza principale di Juventus doveva essere quella improvvisa del terzino destro e poi un'idea per il centrocampista. Matuidi, sono fatti mille nomi, infatti, però anche lì la Juventus non mi sembra particolarmente preoccupata. No, allora lì è un obiettivo individuato. Quando la Juventus, al netto dell'addio di Dani Alves, ripetiamo, del tutto inatteso, aveva pensato a due ritocchi in questa rosa. Uno era appunto l'esterno sinistro di spessore per integrare altri quarti, e uno era un centrocampista, ma non un centrocampista qualsiasi. La Juventus è convinta di essere ottimamente attrezzata sul piano della qualità, sì. È convinta di aver perso giustamente dei muscoli e della fisicità dopo l'addio di Pogba, che dia più forza nelle intercettazioni aeree, che fa dia più forza nella fisicità a centrocampo. Per questo motivo Zonzi, che è un calciatore in apparenza poco reclamizzato, ma era piaciuto molto perché visionato in partite specifiche, ovvero quando ha controllato Modric, quando ha controllato Iniesta, aveva superato a pieni voti questo tipo di esame. Purtroppo Zonzi è al centro di una blindatura da parte del Siviglia, che accetta di lasciarlo andare solo dietro pagamento di una clausola di 40 milioni, pochi. E allora è venuta fuori questa ipotesi Matuidi, che invece, essendo vicino alla scadenza, può essere un affare. Chiaro. Lì c'è lo Sheikho, però, che complica un po' le cose. Sì, scelta è Emre Can del Liverpool, invece un giovane profilo diverso, un giovane Io credo serve un giocatore pronto. Pronto, cioè Matuidi mi sembra una buona idea per molte ragioni. Sono d'accordissimo con te, anzi ti aggiungo che se non ci saranno le barricate dello Sheikho, penso che il giocatore sia lui, per due motivi: perché ha le caratteristiche di cui parlavamo, perché ha una possibilità d'acquisto a prezzo ottimo essendo vicino alla scadenza, perché ha voglia di venire alla Juventus e poi perché ha un procuratore che sta lavorando ai fianchi da tanto. Perfetto. Mi sembra che ci siano diversi indizi che ci possono portare a qualche prova. Antonio, ti ringrazio, buon lavoro, un abbraccio. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao Antonio Barilla. Allora, ci fermiamo per il traffico e poi ci tuffiamo nelle emozioni granata, nei casini giallorossi e viola. A tra pochissimo. convocati. Tutti convocati. Convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Oggi ho cercato in tutti i modi di essere presenti e di essere presente a questa prima, a questo battesimo, diciamo ribattesimo del Fila, perché è una giornata storica per noi e devo dire ne è valsa veramente la pena, perché vedere un Fila pieno di gente, festante, incitante, con tutte le bandiere granata, con i cori più belli possibili, veramente è stata una bellissima cosa essere qua e mi ha fatto veramente piacere. È stato un bellissimo battesimo della stagione. E beh, come poteva mancare Presidente Urbano Cairo in un giorno che può diventare nel suo piccolo storico, perché il Torino al Philadelphia, un Philadelphia pieno, ogni granata voleva essere lì, avrebbe voluto anche Ciccio Graziani, il mio amico che fa fatica a rispondermi al telefono. Perché Ciccio? No, mai fatica. Dove stai? Che fai? Sei in vacanza, no, in spiaggia, c'hai da fare? No, mi sto godendo l'ultimo giorno di vacanza qui al mare con la mia nipotina, poi loro tornano allora, a Mantova. E allora, guarda, io torno a casa stasera e quindi va bene così. T'abbiamo spaccato i maroni. No, scusami Ciccio, no, scusami. Assolutamente no. Senti, tra l'altro festeggiamo insieme un compleanno, poi lo farò anche con Marino Bartoletti. Sì. Lo sai a che compleanno mi riferisco? No? Di 35 anni fa, abbiamo fatto 35 anni oggi. Abbiamo fatto 35 anni oggi da quella notte. Allora, certo. È il caso di ricordarlo secondo te agli italiani? No, io penso di no, perché anche stamattina... Guarda, io stamattina sono andato al bar a fare colazione e ho trovato due signori che me le hanno ricordate. Ho fatto una passeggiatina sulla spiaggia, altri tre signori mi hanno detto, oh, oggi è 35 anni. Credo che quella vittoria sia rimasta nel cuore, nell'anima, più nella di mente, ogni altra, più di ogni, ogni altra cosa. Esatto, Ciccio. Perché forse è stata magica, particolare, vissuta in un certo modo, in un... Per il momento storico, per la squadra che eravate, per il momento sociale che stavamo vivendo, per mille ragioni. Senti, sono le 14:18 dell'11 luglio 2017. Cosa stavi facendo alle 14:18 dell'11 luglio 82? Secondo me te lo ricordi. Stavo esattamente confortando Giancarlo Antonioni, perché dormivamo in camera insieme, e vedevo Giancarlo che era molto molto preoccupato, perché ha detto io non ce la faccio, però ho detto Giancarlo, ma provi, la faccio. Tu adesso vai, vieni allo stadio, provi, magari col professor Becchiert ti fa un po' di nuova cocaina, ti toglie il dolore, anche se c'è il gonfiore, ma vedrai che ce la fai. E lui diceva no, Ciccio, non ce la faccio. E allora stavo confortando Giancarlo, perché vedevo la tristezza nei suoi occhi con la paura di non poter giocare questa partita, che era il coronamento massimo. No, poi di fatto aveva ragione lui, non ce l'ha fatta però era contento uguale come lo eravamo noi alla fine. Ci mancherebbe altro. Senti Ciccio, passiamo alla cronaca. Sì. Parlavo del Toro al Philadelphia per la prima volta, un sacco di gente, per chi ha nel cuore quel colore, e tu ce l'hai, è un giorno meraviglioso, più di è un giorno speciale. Pensa che l'anno che noi abbiamo fatto 50 punti, abbiamo fatto il ritiro a Torino di agosto, dormivamo su in collina, un albergo in collina, ma venivamo tutti i giorni giù ad allenarci al Philadelphia. E quello è un ricordo meraviglioso, perché noi al Philadelphia ci stavamo tutti i giorni, quindi alla fine era diventata routine, no? Anche se routine non lo è mai, perché quando tu entravi nell'atrio per andare negli spogliatoi e passavi sotto questa immagine stupenda di questo grande Torino, c'era sempre il timore di stare zitti, di non parlare, perché non dovevamo disturbare assolutamente questi grandi campioni che erano lì che ci guardavano. Però devo dire che quell'anno che ci abbiamo fatto il ritiro precampionato è stata una stagione straordinaria, perché non solo facemmo 50 punti, ma quell'anno abbiamo vissuto il Philadelphia con una preparazione estiva che non è mai più successo, e ho un ricordo particolare. Allora stamattina, quando ho visto le immagini sui giornali di questa grande festa del ritrovo del Toro con tutti i suoi tifosi, è stato un bel tuffo nel passato. Oggi ho vissuto due emozioni molto belle che ricorderò per tanto tempo. Allora, sei pronto a arrabbiarti? Sì, come no. Ecco, allora, Di Francesco su Nainggolan. È un giocatore forte e che noi ce lo vogliamo tenere stretto, ed è questo l'obiettivo mio della società, e lo avremo sicuramente negli Stati Uniti, per quello io sono molto sereno. È un giocatore che ha delle qualità veramente importanti, nel senso che sa sia giocare, sia interdire e anche attaccare e fare gol. Queste sono qualità che una mezzala deve avere. Allora, smobilitazione romana, anche quella maglia ce l'hai nel cuore. Certo. Poi Di Francesco ha parlato anche, per farlo sentire, di quella storia di Instagram, adesso tocca a Nainggolan, sì. Nainggolan va via, eccetera, eccetera. L'ultimo intervento è stato quello di Salah, Raja in partenza, Salah che è andato, già partito. Dal mio punto di vista, chi è stato un po' elegante è stato Salah, perché poteva evitare di fare un commento del genere, visto che lui è uno di quelli che è voluto andare a giocare in Premier League. Ha fatto una scelta, va rispettata, per quello ritengo che questo lavoro debbano fare altri, non i calciatori. Ciccio Graziani, ci stanno smontando la Roma? No, penso proprio di no. Io ma come mi fido no? Molto. No, mi fido molto di questo Monchi, non l'ho ancora conosciuto e so le ambizioni della proprietà, per la grande amicizia che mi lega ad Alex Zecca, che è un po' il braccio destro del presidente Pallotta. E la Roma non smobilita. Adesso in poi, con quel grande tesoretto che è riuscita ad accaparrarsi, andrà sul mercato, farà secondo me delle buone operazioni, e io sono ottimista. Nainggolan non si muove da Roma, a meno che non ci sia una proposta no indecente di più, perché se te si presentano con 70 milioni di euro, ragazzi, come si fa a trattenerlo? Come si fa? Carlo, a lui gli offrono, anziché 4 e mezzo, gli offrono 7-8, quindi diventa impossibile tenere un giocatore a quelle. Solo una proposta un po' più elevata dell'indecenza potrebbe far togliere Nainggolan in questo momento dallo scacchiere romanista, ma no. Non credo, perché nelle ambizioni che ha la Roma lo tiene Nainggolan. Dopo Ciccio. Totti in questo momento, per la tifoseria, perché la vivo un po', per la tifoseria Nainggolan è un grande punto di riferimento. Sì, la tifoseria che non è propriamente tranquilla, perché io ti sento in controtendenza, perché Monchi, che pure a me sta così simpatico, no? Con quel bel sorriso, arriva, prima cosa che fa, bam, fucila Totti, perché l'ha fatto lui, no? Sì. Ha ragione Capello quando dice doveva arrivare uno da fuori e premere quel grilletto, e lui l'ha fatto. Sì. Poi comincia a dire, va bene, Salah deve essere venduto per ragioni di bilancio, fair play finanziario, questa storia la sappiamo. Poi dice, Rudiger al 100% non va via, oggi era lì con la maglia del Chelsea in mano. Poi Paredes via, poi Manolas perché non è voluto andare, ma secondo me potrebbe pure andare. E i tifosi romanisti non so se la pensano come te, li tranquillizzi. Io, no, allora Carlo, io pure, tra virgolette, dopo la cessione di Salah e dopo quella di Rudiger, è un po' di agitazione, ce l'ho anch'io addosso, anche oggi ce l'ho un po' di agitazione. Confido nel fatto che è stato creato un tesoretto importante, sì, e la possibilità di andare sul mercato, siccome dicono tutti che questo Monchi è davvero bravo, sì. E allora io dico, in questo momento anch'io come tifoso sono un pochino preoccupato, senza ombra di dubbio, però vedo che ci sono le intenzioni, la volontà di mantenere una squadra forte, e sono convinto che andrà a prendere adesso aspettiamo di vedere chi prendere, poi facciamo il punto, tiriamo le somme e vediamo se Di Francesco si tranquillizza. Altro che deve essere tranquillizzato, è la terza maglia che ti sta dentro, ti sta tatuata sull'anima, è il Pueblo Viola. Pioli, io ho parlato il giorno dopo la mia presentazione, il giorno dopo aver firmato il contratto con la Fiorentina, ho parlato con i giocatori della Fiorentina, e devo dire onestamente che al telefono nessuno mi ha detto non ci vediamo il 10 luglio, non ci vediamo perché voglio andare via. Però è chiaro che Il telefono è una cosa, io ho bisogno di vedere negli occhi i miei giocatori, ho bisogno di capire alcune situazioni, ho bisogno di confrontarmi con gli altri arrivi, però non vedo l'ora di conoscerli bene, di parlargli, di comunicargli quelle che sono le mie idee, quelle che sono le nostre intenzioni, quello che è il nostro obiettivo e capire veramente chi ci crede. Allora, sei tranquillo anche sul fronte viola? No, qui non sono molto tranquillo, anche perché mi preoccupa più di tutto il comportamento e l'atteggiamento della proprietà. Io sono un po' preoccupato perché la Fiorentina non ha dietro l'angolo un'altra proprietà a cui aggrapparsi. Non ci sono né americani, né cinesi, né francesi, né spagnoli. E quindi io ho sempre detto che questa è una proprietà che ci ha fatto stare sempre tra le prime 5-6 posizioni. E l'anno sbagliato è stato l'ultimo e ci può stare. Quello che mi preoccupa è questo, perché io poi confido che Corvino è sempre molto bravo, perché Pantaleo è uno tra i direttori più bravi che noi abbiamo, però in questo momento è perso Borja Valero, sì. Perderà i padeli perché non rimane, perché evidentemente con un anno di scadenza non ci vanno loro, e perderà i Bernardeschi, ma Bernardeschi secondo me non è una perdita di quelle che preoccupano, perché io non lo vedo ancora pronto per grandi livelli, e se ti danno 40 milioni più bonus, se Pantaleo ha dei problemi ce lo porto io a Torino con la macchina, perché sono tanti soldi per un giocatore come lui in questo momento. E c'è anche l'aspetto Kalinic che anche qui preoccupa un po', perché il ragazzo ha già detto io voglio andare al Milan, e quando i calciatori si esprimono in questo modo sono dolori per una società, perché il coltello dalla parte del manico ce l'hanno sempre loro. Quindi, però io confido nel fatto che se dovesse andare via dei calciatori come sono andati e dovessero arrivare degli altrettanti bravi con dei costi più giusti, magari anche per la società, ma dal punto di vista tecnico non li facciano rimpiantare, io anche qui sto aspettando, Carlo, non posso condannare in questo momento nessuno, perché l'unica preoccupazione seria vera che ho è che in questo momento c'è la famiglia della Valle che ha fatto due o tre passi indietro. E questo un po' mi preoccupa, questo sì. Per il resto, guarda, uno scollamento così tra i Della Valle e la piazza di Della Valle non c'era mai stato, eh? No, siamo arrivati al punto forse della rottura quasi totale. Io dico il quasi perché nella vita c'è l'attimo che può cambiare le cose, però in questo momento tra la stragrande tifoseria fiorentina e la famiglia Della Valle c'è un distacco abissale. Anche qui io dico aspettiamo a dare delle valutazioni, vediamo che squadra propongono, vediamo che operazioni fanno, perché noi un'altra proprietà che possa sostituire quella che c'è oggi non c'è dietro l'angolo. Io lo dico sempre a tanti tifosi, aspettate a giudicare, aspettate a condannare, perché ragazzi si fa presto ad avere delle grandi difficoltà, perché chi investe nel calcio oggi sono sempre pochi e soprattutto meno italiani rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi tempi. Oh. Grazie Ciccio. Ciao Carlo. Ciao. Buon compleanno, eh. Grazie. Buon 35esimo compleanno Ciccio Graziani. 800 24 00 24, vi aspettiamo dopo la borsa. Ragazzi, io ho una voglia da morire di parlare del nuovo tridente del Verona. Ad avere i soldi di Inzaghi. Tutti convocati. I vulcani sono montagne arrabbiate? Gli antichi romani facevano il bagno nel Tevere? I paesi sono tutti uguali o tutti diversi? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Torna a Terra in Vista con l'Italia spiegata a mio figlio. Parleremo delle tante diversità dell'Italia attraverso le città, i fiumi, le coste, le montagne, le isole. Cercheremo di capire insieme perché l'Italia è un paese davvero unico. Insegniamo anche a fare la pizza, quindi? No, dai, pizza e mandolino no. Terra in Vista, l'Italia spiegata a mio figlio, con Telmo Pievani e Federico Taddia. Ogni domenica alle 12 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. qua il cross per Cassano che può controllare. Cassano due volte, Antonio Cassano, il Parma va sul 2-0. Cerci, porta palla, Cerci, palo gol! Che gol di Cerci, incredibile a Torino! Cassano un po' scoperto in Catania, Cassano può puntare, c'è Pazzini in mezzo, attenzione a Cassano, proprio per Pazzini! E la Sampdoria in vantaggio dopo 9 minuti, Pazzini! Ritorno splendida di Cassano, Antonini per Sedo a finale di rigore, arrivato anche Gattuso, arriva anche Cassano, controllo d'esterno Gattuso, 1-2, ancora Cassano! Ancora Alessio Cerci! Si sblocca Alessio Cerci, 5-0! Palla buona per Palombo, Cassano deve uscire dal fuorigioco, il tocco su Mannini, vai dentro! 1-0 Maria, Pazzini! Beh, al di là dei gol di Pazzini, abbiamo dovuto frugare un bel po' a due mani nel tempo per trovare altre cose relative a Cassano e a Cerci. Anche perché Cassano, come sapete, l'anno scorso ha giocato 0 minuti, ma non neanche ha visto la prima squadra. Cerci l'anno scorso ha giocato la bellezza di 43 minuti complessivi. Ora, questo tridente costruito dal Verona, molto affascinante, molto d'antan, mi intriga da morire, è una delle storie di quest'estate. Vorrei guardarla dal versante di uno che ha visto l'ultima edizione, abbastanza datata devo dire, 8 anni fa, Giampiero Timossi avevano la maglia della Sampdoria. Beh, Cerci poi parliamo, aveva quella del Genoa, non c'entra in questa storia, però c'entra anche Genoa, il Genoa in questo discorso, poi ci arriviamo. Ciao Giampiero. Ciao a tutti, buongiorno, mi stai dando del vecchio, lo accetto con piacere. Era una grande Sampdoria. Ma che vecchio? Cioè, 8 anni fa, voglio dire, eravamo una mica bambini. Beh, tutti quanti. Abbiamo la stessa età. Come vola il tempo, ma stanno ancora giocando. Dai, non fare sti discorsi, dai. Però credo, è divertente questa. È divertente anche se in questo momento ci dimostra come chi costruisce le squadre abbia molta fantasia e forse non tantissimo equilibrio. Penso alla Sampdoria, che è l'ultima squadra di Cassano, che ha visto andare via tutti i giocatori di qualità in questo momento, tutti. Indiscutibile, credo che sia assolutamente cosciente di questo anche l'allenatore della Samp, Giampaolo. Schick, Muriel, Sgrigna, chiunque avesse qualità in quella squadra, in nome delle plusvalenze e delle squadre gestite con le plusvalenze, ha lasciato Genoa. A questa squadra avrebbe fatto comodissimo il genio a intermittenza, a part time di Cassano. Penso al Verona che, come dicevi tu, ha un attacco che potrebbe sulla carta, che può sulla carta regalarti emozioni importanti. Io sono un fan di Cassano da sempre, perché mi basta una sua giocata per divertirmi. Ma certo, ho bisogno di divertirmi. Non sono una cagnina. Io non sono un tifoso per niente. Io cerco emozioni. Io sono un cercatore di emozioni. Solo che qualcuno nel Verona poi dovrà anche correre. Va al di là di questo. Ma secondo te può ancora funzionare? Può davvero funzionare questa cosa? È chiaro che dal punto di vista del fascino. Però abbiamo, al di là di Pazzini, che l'anno scorso ha fatto un eccellente campionato di Serie B ed è ancora un giocatore, Cassano non è un giocatore da un paio d'anni, il talento ce l'ha, la forma fisica si può trovare, eccetera, eccetera. Cerci pure, l'anno scorso 43 minuti. Ha vinto anche da solo un derby a Genoa, insomma, poi l'anno scorso no, perché come hai ricordato tu, presente zero, allenamenti con la primavera, credo un discorso abbastanza chiaro a inizio stagione, e quindi insomma non c'è stata vera partita per lui, non, adesso pochi giorni fa posso giocare ancora decine d'anni visto il livello della Serie A, e questo fa capire che anche psicologicamente il ragazzo non è cambiato. Ritrovare Pazzini può essere uno stimolo, anzi sicuramente uno stimolo in più, e credo che nella scelta complessiva, nella scelta di Cassano e nella scelta del Verona di puntare su Cassano ci sia anche questa intesa, questa amicizia con Pazzini, ci sia anche una ragione di diciamo così di marketing, di immagine, no? Perché io credo che, ma tra poco ne avremo la prova, tra i tifosi del Verona ci sia una certa curiosità, al di là della preoccupazione. Sì, c'è anche entusiasmo, no? So, perché comunque... Ma credo di sì. Ma io credo di sì. I primi commenti mi sembrano commenti, perché comunque sai che crea tante condizioni, alcune condizioni difficili da gestire, caratteriali, ma tenuta di questo giocatore, però l'attenzione è subito andata sul Verona e su sei colpi di mercato. Questo è evidente. Senti Gian Piero, per chiudere, io vorrei passare sull'altro fronte genovese, cioè quello del Genoa. Ieri Preziosi ha detto: ho venduto il Genoa. Questa è l'ultima volta che parlo da presidente del Genoa. A chi non si sa, c'è un nuovo baccaglino all'orizzonte? No, direi di no. L'ho detto già, l'aveva fatto capire, l'ha scritto la Gazzetta, l'abbiamo scritto noi sul giornale una decina di giorni fa. Ha venduto, credo che l'intermediario, l'uomo che ha gestito con Preziosi e con l'amministratore delegato Zarmano l'operazione sia Giulio Galazzi, ormai credo che non ci siano più dubbi, un ex consigliere d'amministrazione della Carige, che è la banca ligure per eccellenza, ma molto, sapete, al centro di molte cronache in questi giorni. Credo che alle spalle di questo manager ci sia un gruppo con investitori americani, credo che siano pronti a investire una cifra importante, oltre 110 milioni, quindi no, non credo, non ne ho le prove, ma diciamo le premesse, la storia, cioè una cosa seria, è una cosa seria, sì. E lo stesso si è già garantito, si tratta, l'unica cosa che ha detto ieri sera, ha detto: non sarò più presidente, mancano le firme, il che vuol dire che può mancare tutto, soprattutto con un imprenditore particolarmente rapido nelle decisioni, anche a volte istintivo come Preziosi. Però insomma l'operazione è conclusa, io credo che oggi c'è consiglio di amministrazione della Carige, quindi probabilmente non è la giornata giusta, ma forse nella giornata di domani, comunque entro la fine di questa settimana sapremo. Il passaggio di consegna sarà quindi in arrivo splendide notizie per la Genova del Grifone. Gianpiero, ti ringrazio, ci sentiamo presto Gianpiero Timossi, ciao. Grazie. Allora abbiamo il traffico e poi voglio provare a capire con uno che conoscete molto bene, che parla a questi microfoni non di sport normalmente, ma di un'altra cosa, che è un ultra del Verona, e avete già capito di chi parlo, se davvero la torcida del Verona è contenta, oppure, come dice Timossi, oppure no. I love this game. Tutti convocati. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere su intelligenza artificiale, cyber security, cloud e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Tutti convocati. Dunque, in attesa di collegarci con il tifoso veronese Doc, che non vedo attraverso le vetrate, ma adesso lo recuperiamo. C'è un salto a Wimbledon dal mio amico Stefano Meloccaro. Ciao Stefano, quando torni? Quando torni? Che domanda stupida che mi viene. Torni quando hai finito il torneo? No, ma quando torni a Milano, che ti vedo? Sì, sì, no, torno, diciamo che domenica si gioca la finale e poi sei a Milano, non proprio dritto a Milano, sto facendo un passaggio per le vacanze, però sì, fatti, sì, prima poi ci vediamo, fatti sentire, che mi manchi, ho voglia di vederti. Senti, assolutamente. Allora, fuori la prima testa coronata, cade nel cesto la prima testa coronata, onestamente dopo una rivoluzione che è stata lunghissima, l'ha compiuta Müller ieri, quinto set, sì, batte, sì, Rafa Nadal 15-13. Sì, no, ma poi tra l'altro dopo avere, cioè Nadal aveva recuperato due set, no, perché Müller era andato avanti 2-7-0, poi Nadal vince terzo e quarto, si gioca da 4 ore, tu dici beh vabbè, ma Nadal non perde mai una partita del genere, cioè lui nella lotta, quando si va sulle lunghe distanze, sulla maratona è imbattibile, invece quell'altro lungagnone, 34 anni, perciò uno un vecchio considerato insomma nel tennis contemporaneo, regge fino alla fine e batte Nadal 15-13 giocando una gran partita. E sai qual è il segreto di Müller? No, dimmelo tu. Gli infortuni, cioè quello è un ragazzone che a tennis ha sempre giocato bene, ultimamente si è fatto male al gomito, è stato costretto a non giocare a tennis e lui ha detto cosa dovevo fare, sono andato in palestra, visto che non potevo andare sul campo. Proprio lavorando in palestra ha messo su sto fisico, sti muscoli che gli hanno permesso di reggere 5 ore con Nadal e di batterlo, capito? Cioè, bisogna farci cioè, male fare la guerra di muscoli con Nadal la prima volta, capito? No, però va detto, no, ma va detto che lui comunque gioca serve in volley, sai, chi ha visto la partita, sì, l'ho visto, l'ho visto, cioè l'ho quello visto, gioca, visto, gioca visto all'antica, la rimbambito di volley, di ace, per cui no, ha giocato benissimo, ha giocato la classica partita di Wimbledon che piace a me, perché vedere due che si mettono in fondo e picchiano non è Wimbledon. Allora, nel frattempo, per quanto riguarda le altre teste coronate, Federer ha piallato letteralmente Dimitrov, Murray mi sembra stia bene, oggi vediamo come sta Djokovic. Giusto? Sta giocando, è avanti 2-7-0, per questo ma francamente non mi pare, ma il pur volenteroso Mannarino, il giocatore francese, che possa dargli fastidio. No, direi che ce li portiamo tutti e tre avanti ai quarti di finale, vediamo quello che succede. Oggi peraltro giocano anche le donne, perché ne parliamo poco, ma insomma se Venus Williams dovesse riuscire a vincere il suo sesto Wimbledon sarebbe veramente una grande notizia da raccontare, e sì, la notizia da raccontare tra l'altro è che oggi ha brutto tempo, cioè per la prima volta in queste due settimane. Ho visto con la giacchetta. Esatto. Sì, c'era fino a ieri c'è stato il clima praticamente di gabbicce mare, di ostia lido, e oggi finalmente per il primo giorno siamo a Wimbledon, cioè piove, scoprono i campi, sul centrale Djokovic sta giocando con tetto chiuso. Sì, ascolta, vi parlavi del tabellone femminile di sì, io non posso dirti, io ci credo. Dai, se facciamo il serio. Donna. Dai, ha battuto, la cosa bella di Venus. No, ma io mi piacerebbe da morire, ma non riesco. Guarda, allora, fino adesso ha battuto, lei ha 37 anni, ha battuto la giapponese Osaka e la Konju croata, che sono ragazze che hanno 20 anni meno di lei, praticamente quando Venus giocava la sua prima finale di Slam queste ancora non erano nate. Oggi gioca contro la Ostapenko, che è la campionessa di Roland Garros, che è un'altra che è nata nell'anno in cui Venus ha fatto la prima finale di Slam. Hai capito come funziona? Lo so come funziona. Se Venus avesse fatto le cose diciamo un po' premature, potrebbe essere la mamma. Beh, 17 anni si fanno i figli. Oh, ma per carità, ma ne conosce tante. Ma questa età tennistica è quella di un anziano, perché sì, 37 anni. Esatto. Però io vedo più l'Alep. Posso no, sai, però sai qua, sì, Alep Muguruza. Alep Muguruza. Ti lascio con una bella storia di sport, perché stamattina ho incontrato Stan Smith. Voglio dire, forse l'unico tennista meno famoso delle sue scarpe, per cui l'ho salutato e gli ho detto, l'abbiamo intervistato, gli ho detto Stan, com'è la storia delle scarpe? E lui ha detto, cioè, guarda, negli altri posti del mondo ancora mi riconoscono, in Italia non sanno nemmeno chi sono, pensano che io abbia preso il nome. Ma prende le royalties? Ma credo di no, glielo chiesi una volta, mi disse di no, aveva firmato a suo tempo, firmò un contratto, lo turlupinarono. Lì che come Michael Jordan, che a ogni prodotto Jordan che compri gli versi dei soldi ancora adesso. Ste, grazie, a presto. Grazie a te. Ciao Stefano Velocara da Sky, ciao. Che intanto vi confermo, Djokovic sta giocando in maniera... sta conducendo in bellezza la partita su Mannarino 2-0 per quanto riguarda i set, insomma la testa coronata caduta è quella di Nadal, le altre non danno segni di sbandamento. Allora adesso ci fermeremo per il GR, il tifoso del Verona che vi ho promesso è in riunione, ma poi ve lo pesco, o almeno ci provo. Intanto, di sicuro, dopo il giornale radio, avremo Marino Bartoletti che torna su questi schermi e a Di Maro, già ve lo dico, già vi anticipo anche che ha regalato a Sarri, ci sono testimonianze fotografiche ovunque, la maglia rosa numero 100, del Giro d'Italia numero 100. Ho ricevuto poco fa una foto, l'ho fatta vedere anche a Giorgio De Luca, di Marino Bartoletti in tenuta ciclistica, ha la gran voglia di andare in bicicletta, quindi sarà con noi e poi lo lasciamo andare. Tra l'altro, voi che lo leggete, ecco, è arrivato il tifoso Verona. Sì, ma arrivi adesso che c'ho il GR. Vado col GR. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. La prima guerra mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, ultima leva ad essere chiamata alle armi. E quest'anno diventano maggiorenni altri ragazzi del 99, nati 100 anni dopo, nel 1999. Diventano grandi non in guerra, ma partono anche loro per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato per una gara sportiva. Radio 24 ve li racconta i ragazzi del 99, incontrandoli e facendoli parlare. Di cosa fanno, cosa vorrebbero cambiare, come disegnano il loro futuro. Ritratti di ragazzi straordinariamente normali. I ragazzi del 99 di Maria Piera Ceci. Il sabato alle 14.30 e la domenica alle 9.30 su Radio 24. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai nostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Bergomi! Gentile, è finito! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Bene, abbiamo parlato prima con Ciccio Graziani, con questa musica che è musica per noi. Volevamo parlare con, volevamo aprire il discorso con Marino Bartoletti, che c'è? Presente. Ti sei perso la musica iniziale, cioè quella del campioni del mondo. Ne abbiamo parlato prima con Ciccio Graziani, un po' di Amarcord, ma stiamo tutti festeggiando i 35 anni, mio caro. Dire sembra ieri è un po' banale. Sembra ieri, sembra oggi, sembra domani, non tanto, sembra anche domani, perché anche domani, dopodomani, fra 35 anni ancora sarà la stessa cosa. Ascolta, ma dimmi questo. Ti leggo sui social, dai social alla carta stampata, il passo è stato brevissimo. Raccontami un po' questa storia qui. Guarda che ormai è stato lungo il passo per arrivare ai social, ma mi è stato detto che dovevo allinearmi con la contemporaneità. No, perché io so, quindi... da che ti conosco, quando ti chiedevano, Mario, potresti scrivere un libro, tu li mandavi cordialmente o meno in quel posto. Guarda, l'unico libro che ho scritto tanti anni fa lo scrissi su Lucchinelli, a cui mando fra l'altro il mio abbraccio affettuoso. Io mi unisco come ho fatto l'altro giorno. Perché quel bimbo che non c'è più dall'altro giorno, era un bellissimo bambino con i riccioli biondi che tenevo in braccio, in una foto proprio su quel libro, ma chiudiamo questa parentesi malinconica. E da allora ho sempre detto di no, fino a che 3 mesi fa un editore ha detto: ma non ti sei accorto che il libro l'hai già scritto? Questo è vero, me ne sono accorto anch'io. Entrando su Facebook e continuando ad essere me stesso, perché tutti naturalmente mi avevano mandato delle fatture dicendo su Facebook bisogna fare questo, questo, quest'altro, evitare questo, questo, quest'altro, io che non mi intendo né di fatte né di Facebook, su Facebook sono stato semplicemente me stesso, ho raccontato le mie piccole storie, le mie piccole favole, le mie piccole esperienze, se mi veniva una riga in più era lo stesso, anzi mi piaceva ancora di più, se c'era da decorarla con una foto come il mio abbraccio a Marco Pantani esattamente un anno prima che decidesse di lasciarci, oppure tutte le cose che in qualche modo hanno contrappuntato la mia vita, c'è persino una mia foto senza baffi, ma non credo che sia il clou di questa stagione su Facebook, insomma, dato che tutti dicono che la carta è in agonia e visto che io con la carta ci sono nato e ne adoro ancora il profumo, ho accettato questa sfida, per cui faccio il percorso inverso e il mio anno di Facebook da digitale diventerà cartaceo e sta nascendo e viene stampato e lo presenterò il 1 agosto, questo libro che si chiama Bartoletti, naturalmente Bartoletti, non al mio caffè itinerante in cui tutti possono entrare, in cui tutti possono parlare o scegliere il canale televisivo che desiderano più o meno metaforicamente, il sottotitolo è Così ho sfidato Facebook. È venuto un bel lavorino, guarda, è appena uscita la notizia sul sito dell'editore che è Minerva e hanno già prenotato centinaia di libri, appunto ci toccherà stamparli. E che dici, Mari? Facciamo sto sacrificio. Ascolta, ci sono le tavole di matitaccia di Giorgio Serra, il grande sviatore di autospinta di motori. Ascoltami, sei a Di Maro naturalmente, so che sei già in tenuta ciclistica, ne ho le prove, prima le ho mostrate a Giorgio De Luca. Mi spiace averti rotto le scatole, ma... Sai cosa, avevo un po' freddo. Avevi un po' freddo. Questo per farvi un po' di invidia. Perché invece se no non me ne fai, vabbè. La sera non basta il cashbirino, devo dire, per stare fuori. Napoli. Io non mi muovo di casa dove c'ho l'aria condizionata e tu conosci bene questo posto, quindi lascia stare questo, per favore. Parlami della maglia rosa numero 100 che hai regalato a Sarri. Parlami di questo Napoli, parlami di Sarri, dimmi qualcosa di... Cominciamo da Sarri, guarda, io gli avevo fatto una piccola promessa, noi abbiamo un impegno morale che è quello di parlare sempre, se non soprattutto, di ciclismo. Durante il Giro d'Italia, dato che lui è un grande appassionato di ciclismo, gli ho in qualche modo fatto questa promessa. Ma ci capisce, detto tra noi. Ci capisce moltissimo e ha detto che la sua unica preoccupazione in questo periodo è cercare di non sapere come vanno le tappe del Tour de France, che poi vedi in replica la sera, e se lo vedete con gli occhi cerchiati il giorno dopo all'allenamento, è perché ha fatto notte per vedere... barricandosi in camera senza che nessuno gli dica l'esito, la tappa del Tour de France. Era entusiasta di Aru perché è riuscito a, come dire, parliamo della tappa vittoriosa, naturalmente, perché era riuscito a farsi mantenere il segreto attorno. Però io ho visto, non solo per merito del ciclismo, non solo per merito della tenerezza di cui parla di suo padre, anzi di suo babbo, che ha 89 anni, va ancora in bicicletta, che ha corso con Coppi, fra virgolette, in realtà ha corso nell'epoca di Coppi, però è stato professionista assieme a Petrucci e altri campioni dell'epoca, e grazie anche al ciclismo, ma non soltanto, ho trovato un Sarri molto sereno, molto motivato, molto migliorato, perché continua ad essere se stesso, quindi un allenatore bravo sul campo, questo lo sappiamo, sincero, a volte anche troppo, però riesce a dire le cose con amabilità, con simpatia, con efficacia, come ha fatto l'altra sera in quella curiosa conferenza stampa fra lui, Insigne, Alan e i tifosi, quando gli è stato detto qual è stato il compromesso più pesante che ha avuto con De Laurentiis quest'anno, domanda che tutti noi giornalisti ci eravamo dimenticati di fare, per la verità. Lui prima l'ha buttata in cacciara dicendo che De Laurentiis non lo obbliga a stare in giacca e cravatta, poi alla fine ha detto, e lo avrai letto, insomma è chiaro che il presidente ogni tanto svalvola, però... aspetta, aspetta che lo facciamo sentire a tutti. Sarri non si impone su niente, poi può avere le sue idee, in certi momenti le esprime in un certo modo, però poi basta imparare a conoscere le persone. Il nostro presidente è uno e c'ha dei momenti in cui può, come si dice a Firenze, svalvolare, però poi alla fine se lo senti per telefono il giorno dopo è tornato alla persona calma di prima, quindi basta il compromesso è saperlo contenere nel momento in cui va per la sua strada, però sono momenti tutto sommato brevi e non penso neanche sia un grande compromesso, visto che in altre società e in altre squadre penso ci sia molto di più da ingoiare. Ascolta, com'è sto Napoli? Compromesso. Guarda, intanto ha un allenatore che ha imparato a contare almeno fino a 10, prima contava fino a 5, adesso conta fino a 10. È un Napoli che secondo me ha fatto una grandissima campagna acquisti. Guarda, c'è qualcuno che svende, c'è qualcuno che vende, c'è qualcuno che fa finta di comprare, c'è qualcuno che compra effettivamente e qualcuno che tiene. E se il Napoli avesse dovuto cercare sul mercato un Martens, un Insigne, un Koulibaly e forse un Reina, perfettamente d'accordo Marino, ma è quello che dico, la gente non capisce che il mercato si fa anche in questo modo e ha fatto un grande mercato in questo modo. Guarda, guarda, adesso parto per la tangente, diceva Leonardo da Vinci che per fare un grande affresco ci vuole un grande intonaco, cosa di cui si dimenticava ogni tanto, per la verità. L'intonaco del Napoli è perfetto. Perfetto, perché comunque viene da un finale di stagione in cui nulla è più stato sbagliato, quindi è da lì che bisogna ricominciare. Manca un pittore che gli disegni sopra qualcosa e devo dire che i napoletani, mi dispiace che non ci sia Giovanni e che poteva darci conforto, stanno perdendo il senso della scaramanzia. Qui la parola assolutamente più ripetuta è scudetto e lo dicono tenendo le mani ben in alto. È vero, è vero, è vero. Abbiamo sentito ieri Lorenzino Insigne, l'unico che non lo dice è Sarri. Ascolta, è Marino, vero, l'unico che non dice Sarri. Non posso salutarti senza una canzone che è questa. Goodbye to lose. Ti piace, eh? A chi la vuoi dedicare? Al tour e al divertimento allora, che ci sta regalando. Allora, guarda, io ho la totale certezza che Aru arriva o primo o secondo. E questa è una cosa che mi conforta molto. Sono un po' arrabbiato con lui, per la verità, in proporzione al bene che gli voglio, perché l'altro giorno non ho apprezzato quell'attacco che ha fatto sotto al naso di Froome, ma ancor di meno ho apprezzato il fatto che poi si sia fermato. Perché una cosa o si fa o non si fa. Io l'avrei fatta, su questo non sono d'accordo con te. Già che l'ha fatta, non ho capito perché a un certo punto invece ha applicato il politicamente io sarei corretto. No, il politicamente corretto può stare in un altro posto. Allora, come vedi è corretto il mio percorso anche a seconda del tuo pensiero. Non sono entusiasta del fatto che l'abbia fatta, poteva farla meglio, ma una volta che l'hai fatto, tiri dritto. Dopodiché è il mistero degli ultimi 20 chilometri, per cui non ho capito assolutamente perché la Astana abbia collaborato con Froome per andare a prendere Bardet. Froome se la doveva sbucciare da solo, cosa. Smazzare arrivava da solo. Stremato alla fine, ammesso e non concesso che prendesse Bardet, e i 6 secondi o i 4 secondi di abbuono se li prendeva Aru, possibilmente con l'aiuto di quel signore che si chiama Fulsgang, e non ho capito per che squadra corre. Quindi a questo punto Aru Paglio di Siena, almeno, ecco, Aru si è giocato almeno 6 secondi di abbuono potenziali, 4 invece se li è presi Froome, perché Fulsgang a un certo punto si è dimenticato di avere il capitano alle sue spalle, si è messo a fare dei numeri a 500 metri dal traguardo. 4 secondi in più per Froome, 6 secondi in meno per Aru, sono 10 secondi algebrici. Quest'anno 10 secondi potrebbero bastare e avanzare per far vincere o far perdere il tour. Però resta la mia totale fiducia a questo ragazzo che non ho mai visto così in forma come in questo momento. E poi sai, cosa è una cosa bella? Indossa una maglia tricolore che è una maglia tricolore. No, ma sai, l'altro giorno Basso mi ha detto che la rinuncia forzata e dolorosa al Giro in fondo gli ha fatto bene, cioè i dividendi li sta pagando adesso. Sì, sì, ma guarda, Delfinato, campionato italiano, Tour de France, Aru non era mai stato così bello. È bravo perché ha saputo tradurre in qualcosa, in un percorso positivo, le sofferenze incredibili che ha vissuto in tutta la prima parte di questa stagione. Allora, me lo sono segnato, eh? Arrivo primo o secondo. Marino Bartoletti, ti lascio, ti ringrazio, ti abbraccio forte. Sì, ti voglio, sono in mutande, devo tornare in bicicletta, perdona. Lo so bene, maglia rossa per Marino Bartoletti. No, maglia nera, la bici è rossa ed è rigorosamente col nago, la nuova V2R, però bisogna pedalare ugualmente. La maglia è nera perché comunque bisogna fare professione di umiltà. Lasciami stare, guarda. Ciao Marino, ti voglio un bene. Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, adesso, prima di andare su un mercato estero dove lì sì ci sono scintille grosse, c'è un ascoltatore che non vedevo l'ora di chiamare, perché mi scrive tutti i giorni, l'ho citato molto spesso, ci ascolta quotidianamente da un posto da un luogo molto molto lontano, cioè dalla Corea del Sud, però so che adesso è in Italia. Vincenzo, buongiorno. Ciao Carlo, grazie per la convocazione. No, ma grazie a te. Sei in Italia adesso? Sì, adesso sono a Roma, arrivato ieri e come hai detto tu vi ascolto quotidianamente dalla Corea. Ma che ore sono in Corea a quest'ora? Adesso in Corea sono le 10:20 di sera, in quanto siamo 7 ore nel futuro, diciamo. 7 ore nel futuro, e guarda, mi fa molto piacere ricevere. So che abbiamo ascoltatori in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, la Corea del Sud ci mancava e sei il nostro portabandiera lì. Possiamo fare qualcosa per te? Possiamo, possiamo fare migliorare questo programma magistralmente disegnato da Giorgio Luca e Edoardo Lavezzani? Credo che ci sia poco da migliorare. Ti svelo un piccolo segreto, non citando il nome. Sono passato da una radio all'altra pur di ascoltarvi in diretta, quindi penso siamo già al top, come direbbe un vostro collega. Sì, nostro collega Vincenzo, ti ringrazio. Senti, continua a seguirci, adesso è facile, ma pure quando torno in Corea. Io aspetto di leggere i tuoi WhatsApp. Soprattutto, un piccolo favore, Carlo. Dimmela. Se puoi salutare da parte mia e Pierluigi Pardo. Lo farò, è in vacanza. E anche Marino Bartoletti, in quanto sono cresciuto con il suo guerin sportivo nel periodo 94. E ti assicuro che lo stai facendo da solo, perché ti assicuro che in questo momento ci sta ascoltando Marino Bartoletti. Quindi lo stai facendo da solo. Ciao Vincenzo. Un abbraccio Carlo, a prestissimo. Maurizio da Carrara, invece, per lui è più facile ascoltarci. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi. Mi dica. Grazie per la convocazione. Grazie a lei. Allora, niente, io ho ascoltato un attimino il commento di Graziani su Bernardeschi e magari sarà che sono un carrarino, quindi mi sento un po' coinvolto, perché Bernardeschi, come lei sa, è di Carrara. E volevo fare un ragionamento sulla quotazione, no? Perché mi sembra che quando parliamo di quotazione, i giocatori esteri le prendiamo, va tutto bene, 180 milioni, 100 milioni, 120 milioni, Mbappé, Aubameyang, Morata. Qui parliamo di un ragazzo che è da 10 anni, che praticamente nel giro della nazionale ha cambiato diversi allenatori, tutti l'hanno voluto. Ha fatto uno splendido campionato con la Fiorentina nonostante qualche infortunio, però quando ci sono quotazioni così importanti ci meravigliamo. Ho la sensazione che quando parliamo dei giocatori italiani, francamente, tendiamo a svalorizzarli. Volevo sapere qual era la sua opinione. La mia opinione è che Bernardeschi mi piace da morire, ma mi piace da morire per a cominciare dalla faccia da schiaffi che ha, quindi ha fatto un eccellente europeo under 21, tra l'altro è stato secondo me il migliore dell'Italia, andrà alla Juventus e questo è già scritto, in quella società potrà davvero crescere, diventare un grande giocatore, magari dovrà sedersi in sala d'aspetto per qualche minuto, no? per qualche partita, per qualche periodo, per qualche minuto appunto, ma io credo che sia un grande giocatore. Ti va a aspettare, eh? Io ti annuncio da mezz'ora, grazie. Lo so che stavi lavorando, però io ti annuncio da mezz'ora. Anche la mia redazione. Allora, vuoi sapere? Grande campagna acquisti dell'Ellas. Non ti chiedo del consiglio di amministrazione della Carige che decide il futuro del Genoa. No. Anche perché sarebbe una domanda. Io ti giro, invece, l'avete riconosciuto, Sebastiano Varisoni, in Voce dell'Economia, nostro vice direttore, ma soprattutto un ultra del Verona. No, ultra no, un tifoso. Sei un ultra. Cosa vuoi sapere? Cassano, io voglio Pazzini. Sapere, voglio girarti questo messaggio. Cassano l'è amato, i veronesi gli è amati, siamo a posto Marco. Sì, sono d'accordo con Marco. Adesso se vuoi che cerchi di essere serio su un tema, insomma, no, molto serio, molto serio. Mi voglio che mi dici la tua. Io da sempre ho sostenuto in questi ultimi mesi che Cassano avesse il profilo, per quel poco che ci capisco io di calcio, esatto per una e adatto per una squadra di provincia che dalla B viene in A. Un po' quello che è stato mutatis mutandis Tony, che sembrava un calciatore ormai ampiamente avviato sul viale del tramonto, invece risultò capocannoniere di quell'anno. Perché no, lo dico, non solo perché Cassano, come tutti ricordano, con la Samp fece un grandissimo inizio di campionato 8 anni fa, eh? 8 anni fa, siamo d'accordo con Pazzini e già si conoscono. Il mio ragionamento, forse sbagliando, era un altro: quando un calciatore come Cassano è stato una grande promessa, ma non è mai, diciamo, sbocciato fino in fondo. Anche Tony fu una grande promessa, che poi però andò in Germania e ce lo perdemmo un po' dall'orizzonte. Se negli ultimi anni della tua carriera calcistica la provincia ha questa caratteristica che ti esalta, si, diciamo, raccoglie intorno a te rispetto alle grandi squadre, alle grandi capitali, alle grandi città italiane, hai l'ultima chance per dimostrare e lasciare un ottimo ricordo, cosa che Tony in effetti ha fatto, due caratteri diversissimi. E ultima cosa, se mi lasci ancora un minuto, a quella squadra, visto che Tony non c'è più, c'è solo Pazzini, manca qualcuno che anche giocando un tempo e mezzo in spogliatoio abbia l'esperienza, la maturità, abbia visto stadi importanti, conosca la pressione psicologica e quindi possa dire a questi ragazzi più giovani: tranquilli, faccio un po' lo zio. Ora immaginare Cassano come uno zio, mi viene da ridere. Ma ci sono anche zii eclettici, ci sono zii che ti insegnano a bere, che ti insegnano Sebastiano, allora sei portavoce della tifoseria, perché mi sembra che Verona tutta sia contenta. Sentito un mio amico tifoso dell'Ellas, evidentemente. Sergio, cosa dici? Sergio Rocca è assolutamente in linea con questo. Il Bar al Ponte, Como, di ex Brigate Giallo Blu, è sicuramente in linea. Non ho sentito nessuno, ma mi fa piacere che quello che tu mi racconti, cioè che tutti i tifosi ancora più di Cerci, nel senso che poi va benissimo anche Cerci, però Cassano, che ha giocato 43 minuti l'anno scorso, 43, lo so, infatti sarà freschissimo e tonico. Ma a mio avviso l'elemento di Cassano è anche un elemento psicologico. Poi mi sbaglierò e creerà solo casini in spogliatoio, sarò pronto a venire qua con spazio in capo di cenere giallo-blu e dirti che abbiamo sbagliato. Ma secondo me una persona con l'esperienza e anche un pochino, rispetto a questi ragazzi, il carisma di Cassano serve in uno spogliatoio, quando vai a San Siro, quando vai all'Olimpico, quando vai a giocare in stadi dove si sente la pressione psicologica. Allora, il titolo di questa trasmissione è ufficialmente Cassano l'è amato, i veronesi gli è amati, come Barisoni. Guarda che Cassano si trova bene. Siamo a posto. Si troverà bene. Il titolo di questa trasmissione, che finisce qui, che si chiude qui, grazie, ti lascio andare a lavorare. Grazie, e noi ci risentiamo alle 17 con Focus Economia. Con Focus Economia, naturalmente. Il titolo della trasmissione è ufficialmente questo. Io ringrazio Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato, Edoardo Lavezzi. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.